Ecco, noi questa sera Daniela Fabbri con Franca Heller che ci accompagna, è la nostra maestra perché è una collega della biblioteca. Maestra di età. No, professionalmente parlando, è una collega, Franca Heller, della biblioteca scolastica del liceo classico e liceo pedagogico, e quindi ci ha sempre dato tanti suggerimenti, indicazioni e aiuti nel nostro lavoro. Non solo, ma ci dà anche una mano occasionalmente suggerendoci dei libri da presentare e poi offrendosi anche come moderatrice. Questa è una delle occasioni. Quando è uscito il libro di Daniela Fabbri ce l'ha subito segnalato, l'abbiamo acquistato ed è nata l'idea di presentarlo questa sera. Ringrazio anche l'autrice che è venuta, che è qui con noi. E quindi spezziamo un po' la catena delle serate dedicate alla storia con invece una parte più narrativa, e continueremo con questo filo anche non la prossima settimana, perché facciamo una settimana sabbatica, non so cosa è successo, cosa succede ogni tanto, e ci ritroveremo invece il 23 maggio con l'appuntamento del pane nella poesia, in presentazione di quel volume, avete la cartolina sulla sedia. Tanti saluti anche dall'assessore Tommasini a tutti quanti, e vi do subito la parola. Tutti quanti, pochi ma buoni, come si dice. No, grazie, ancora. Faccio un piccolo inciso a proposito di presentare. Spero che anche a Daniela vada come è andata a Bruna, che dopo essere stata presentata qui ha preso la menzione speciale al premio ITAS. Ma io glielo auguriamo tutti, davvero. No, allora, se possiamo portare fortuna, ben venga. No, diciamo solo un attimo chi è Daniela Fabbri. È laureata in lettere, insegna a Trento, ma così diciamo che per caso insegna a Trento. Daniela è secondo me una di quelle persone molto rare che ha una grandissima capacità, rara ripeto oggi, di attenzione, di curiosità e di rispetto per l'altro. Lo dico anche solo nei miei confronti. Noi ci siamo viste sabato per parlare di questo libro, ripeto, mondo assolutamente sconosciuto, di cui poi lei ci svelerà i segreti, per me fino all'altro giorno sconosciuto, oggi piuttosto intrigante, ne abbiamo parlato. E ci siamo viste e ci siamo dette, cavolo, ma noi è la terza volta che ci vediamo da tanti anni a questa parte. Però, non so, a me ha dato questa impressione che, sai, quelle persone che vedi una volta, poi non la vedi per anni, e quando la rivedi è come se ti sia sempre rimasta accanto, no? È una dote che lei ha, e l'ho scoperto nella scrittura, e l'ho scoperto leggendo il libro. Non, è vero, non dico, cioè non faccio, poi non, insomma, non devo, come che si dice, perorare la causa. Kapuscinski diceva che cioè le doti di un buono scrittore, di un buon giornalista, sono proprio per conoscere, condividere. Ecco, io credo che lei sia capace di condividere, che lei abbia questa, ripeto, attenzione, curiosità nel senso più positivo e più propositivo del termine, e rispetto per ogni altro, sia esso luogo, cultura, identità, gente, persona, singolo o etnia. E quindi ha questo modo di muoversi con una estrema creatività anche sua, ma con un estremo, lo ripeto, poi basta perché sennò mi ripeto veramente troppo, rispetto nel mondo degli altri, e questo lo avverti, e questo probabilmente l'hanno avvertito tutte le persone con cui lei è venuta a contatto, rischiando di suo. Quindi le rende merito questa bellissima introduzione che ha fatto Duccio Canestrini, che forse conoscete, che è anche stato qui, che è un scrittore di viaggio che fa dell'antropologia culturale, e che giustamente dice Daniela Fabbri è tutt'altro che una turista nel senso che noi diamo oggi a questo termine abbastanza deteriore, cioè del mordi e fuggi. No, secondo me lei è piuttosto una turista romantica, nel senso che si è fatta un gran tour in quello che lei, in quel mondo che comunque verso il quale già nutriva dell'interesse, e a questo mondo si è affacciata, in questo mondo è vissuta per 3 anni. Anche ve lo racconterà con esperienze drammatiche, cioè ai limiti del, no, senza limiti, proprio rischiando la pelle, proprio perché mi raccontava delle robe che insomma, avendone soddisfazioni o non soddisfazioni, cioè, ma sempre con quel capacità di non portarsi dietro quello stolto bagaglio di pregiudizio, di luoghi comuni che spesso ci accompagna e che spesso accompagna il turista, anche se non lo vuole, anche se è inconsapevole la cosa. Quindi questa sua avventura è veramente stata un'avventura della conoscenza che credo l'abbia segnata in maniera molto forte. E ecco, solo questo volevo dire, che sia sul piano umano, sia in ambito più generale, uno scopre poi quando una persona è vera, è autentica, e oggi, e sottolineo oggi, è molto difficile trovare una persona così, ed è ancora più difficile trovare una persona che con grande levità di scrittura, perché è una scrittura molto lieve, molto leggera, quindi si legge in maniera anche certe volte ironica, anche divertente, in cui capisci il suo pensiero, sempre rispettoso, ma certe volte di dubbio, un pochino di presa in giro, un pochino più sofferto, meno così, insomma, si addentra in un mondo che ha anche molto insomma, di business, di ciarlataneria, di tutto quello che volete, poi diciamo che mondo è, perché sennò uno non capisce, dovevo dirlo prima forse, ma non importa, era solo per introdurre la persona. E si addentra in questo mondo con un grandissimo rispetto, ecco, solo quello volevo dire, e con questa levità di scrittura affronta temi molto profondi e problemi che adesso vedremo di grande rilievo. Che cosa sono le perfumerias? Io pensavo lo dicessi in introduzione, diciamolo brevemente, c'è scritto molto bene anche nel riguardo di copertina, non sono delle profumerie, sono dei luoghi diffusi in tutta l'America Latina, nelle zone caraibiche, piuttosto che nel Venezuela, cioè in tutto il mondo ispanoamericano, dove si vendono statuette, amuleti, qualunque oggetto serva per pratiche religiose, misteriose, dove si mischia il sacro e il profano e dove, ma, mi immagino io nel retrobottega forse, ma forse no, si praticano anche queste pratiche, cioè ci sono i diversi aspetti di questa magia religione, tra virgolette, che poi si è modificata attraverso i tempi, ma che, di cui adesso lei ampiamente ci parlerà. E io comincio col primo di questi problemi, che mi ha veramente colpito molto, questa storia delle brujas postmoderne. Allora tu mi spieghi prima di tutto che cosa sono le brujas e che cos'è il postmoderno e quanto c'è di autentico e quanto c'è di business. Domanda da un milione di persone. Sì. Le brujas sono le streghe, e cioè sono persone che si occupano di magia comune. Allora, nel libro io parlo di varie cose. Se posso dire un'altra cosa sulla perfumeria. La perfumeria è veramente il luogo in cui si rende visibile quella mescolanza tra culti e magia comune che c'è in America Latina. E soprattutto nelle metropoli, nelle città. E quindi io l'ho chiamato perfumeria Caribe perché per me i Caraibi, le città del Caraibi sono proprio un pot di mescolanza di queste, di sincretismi, ma a volte anche di mescolanze caotiche, irrisolte, di queste, sia dei riti e delle pratiche magico-religiose. Le brujas sono proprio le streghe, cioè quelle che si occupano di magia comune, possono essere quelle che leggono la mano o quelle che hanno il pendolo, le carte, che hanno poteri, dicono di avere poteri medianici, per cui tutto, la magia comune, non legata quindi ad una liturgia o ad un orizzonte mitologico, no? Svincolata dal culto. E io ne ho conosciute un po' appunto a Caracas, in Venezuela, di queste le Brujas è un capitolo, il titolo di un capitolo sono Brujas postmoderne, no? Le streghe postmoderne sono appunto, come mi diceva una delle ragazze che avevo intervistato, persone come tutte le altre, cioè che hanno i bambini a casa oppure si sono appena laureate in psicologia, stanno cercando lavoro, cioè, guarda, si vestono come me, no? C'è un immaginario della gente che vede le Brujas, le streghe, come la strega nocciola, quella lì con la verruca sul naso, e rifiuta questo, questa immagine. Brujas, no, non andrei mai da una Brujas. No, è veramente, è così, parlando con la gente, oh, Brujas. Però alla fine vanno tutti a farsi consultare, a farsi fare le carte, a farsi, perché le vere Brujas, cioè quelle che attuano, sono le Brujas postmoderne, cioè persone che hanno un'immagine completamente normale, come quelle che possiamo vedere in televisione che leggono il tarocchio e cose del genere, e solo che in Venezuela sono moltissime. Un po' la crisi e un po' naturalmente questo substrato magico-religioso che nutre un po'. Però c'è una cosa da dire delle Brujas postmoderne, che a differenza delle streghe tradizionali, dei maghi e delle streghe tradizionali, vivendo in un ambiente altamente urbanizzato, hanno cambiato delle cose, nel senso che per gli stregoni e le streghe tradizionali mantenere la tradizione è fondamentale. Cioè il rito va compiuto sempre nello stesso modo, gli ingredienti rigorosamente devono essere rispettati nell'origine. Mentre invece le Brujas postmoderne vedono nell'assimilazione e nel cambiamento un fattore positivo, proprio perché nell'ambiente urbano tutto si mescola e le suggestioni, i nuovi arrivi di nuovi rituali, di nuovi santi, di nuove religioni sono costanti. Quindi cambiare è buono. Qui troviamo dei riti che vengono influenzati dal voodoo, altri che si rifanno alla magia europea. È abbastanza interessante. A volte ci sono degli strafalcioni, ci sono i litigi fra maghi, uno che sostiene che una cosa è veramente troppo postmoderna, altri che invece. Sì, ma sai cosa mi ha stupito molto? Che tu hai intervistato parecchie persone, no? Parecchie Brujas. Sì. Caspita, il livello culturale, il livello di studi, queste erano laureate in psicologia, in antropologia, sì. Molto di loro. È proprio una commistione di tradizione, cioè, non si può più chiamare magia. Allora, arriviamo al secondo problema fondamentale. Quante di loro? Ecco, a parte il business, ma io volevo dirti, cioè, la sanità è un disastro assoluto. Allora, queste hanno preso il posto del No, qui bisogna fare però ho capito. Sì, in un certo senso sì, non soltanto loro, anche curandero, eccetera. Sì, in un certo senso, un po' come poteva essere il sacerdote di un paese una volta, non in modo tanto diverso, oppure sì, in questo senso sì. È molto bello ed è molto interessante là dove dico in maniera leggera, però sviluppi i problemi forti di questi paesi, cioè io ho letto delle cose che mi hanno fatto rabbrividire della sanità, no? Il fatto che non ci sia nessun gene, che la sanità sia tutta a pagamento, che tu non puoi entrare in un ospedale se non accendi un mutuo prima e ti devi portare le medicine e le siringhe. Non è del tutto vero, esistono gli ospedali pubblici, ma le condizioni sono davvero drammatiche. Poi comunque qualunque cosa, dalla siringa all'anestetico, lo devi pagare. Quindi in realtà c'è l'assistenza dei medici, ma ogni cosa bisogna, perché non ne hanno, non ce l'hanno. Le condizioni sono tuttora abbastanza tragiche, e per questo esistono anche per questo, non soltanto, molti curanderos. Torniamo un passo indietro sul business. Esiste il business delle streghe, come esiste il business delle linee, si chiamano linee psichiche. Sono le linee telefoniche per chiamare appunto questi veggenti. Quindi ci sono le star, naturalmente, e poi ci sono quelle che agiscono a un livello più, diciamo, economicamente accessibile. Ho avuto un po' di conversazioni su questo argomento, c'è molti ciarlatani e poi alcune persone che mi sono state date per davvero dotate di qualche forza, di qualche potere. Alcuni di quelli che ho conosciuto, devo dire che mi hanno fatto un'impressione disarmante dal punto di vista dell'umanità, della semplicità, della perlomeno apparente sincerità, ma non ho provato il loro, non ho provato i loro, perché devo dire, per me, cioè, il mio sguardo è un po' quello di uno che osserva la superficie un po' caleidoscopica di queste formazioni, sia quelle cultuali, sia quelle appunto semplicemente magiche, no? Riguardanti la magia. Volevo dare delle istantanee, ma anche forse un po' l'idea di come si intrecciano queste cose, il modo in cui si intrecciano. È incredibile, a un certo punto, cioè, uno si deve fare uno schemino, perché è veramente molto complessa la cosa, sì, perché ci sono tantissimi, per esempio, quanti tipi di curanderos diversi ci sono e dove operano i curanderos? I curanderos sono appunto i guaritori. Ci sono i curanderos che vivono sulla costa oppure all'interno, nei villaggi, ma ci sono anche i curanderos che vivono nella città. Mi occupavo di questi curanderos. Per curanderos intendiamo quel tipo di guaritore che ha o dice di avere dei poteri e che viene spesso posseduto da uno spirito, spesso di un altro guaritore morto. Il più famoso è José Gregorio, che è un medico degli anni 30, scusate, dei primi anni del Novecento, morto nel 1916 in realtà, che era diventato molto famoso in Venezuela perché distribuiva gratuitamente i farmaci. Viene rappresentato in queste statuine che si trovano dappertutto nelle perfumerie, sembra un po' Charlie Chaplin, no? la bombetta, no? Medico bianco, che è diventato molto famoso. Il suo spirito, appunto, è uno degli spiriti che abitano questi medium, che prende possesso di questi medium per le guarigioni, ma non è naturalmente l'unico. Quindi i curanderos sono quei guaritori che appunto vengono posseduti da degli spiriti e in virtù di questa possessione operano delle guarigioni. Possono anche usare erbe o unguenti, ma la forza della loro peculiarità è questa, appunto, quella della possessione. Però ci sono altri tipi di guaritori, per esempio ci sono gli erbateros, che potremmo tradurre come le erba, sono le erbe, no? Erboristi. Esatto. E questi invece imparano la loro arte, generalmente sono figli di erbateros, e è la nonna o il nonno che li porta nell'orto di casa a imparare le erbe, oppure li porta nel bosco, nel monte, nella selva, a imparare le erbe, quindi è una capacità appresa. Questo non significa che gli erbateros non si servano anche di formule, comunque, no? Oppure che non possano portare l'unguento prima in chiesa per fargli assorbire la sacralità dell'ambiente, farlo benedire, di nascosto il prete non lo sa, ma sta benedendo anche durante la messa. Si rubano le benedizioni per far sì che la medicina sia più efficace. E questi sono, ci sono gli sciamani, c'è cioè lo sciamanesimo, qui io non mi sono occupata, ho soltanto accennato perché è tutto un altro mondo. Mi sono occupata soprattutto di culti a possessione, cioè di culti in cui gli spiriti scendono nel quello che chiamano il cavaglio, cioè il medium, mentre lo sciamano va nel mondo degli spiriti, compie il viaggio, il volo magico. Quindi per me è un altro ambito. Certo, beh, come da noi, anche da noi, voglio dire. Certo. Gli sciamani ci sono. Sì, so che sì, c'è è diffuso. Ma lo sciamanesimo addirittura io ho scoperto che pensavo fosse un fenomeno comunque africano, e invece ci sono gli sciamani ucraini, in Ucraina, certo, per esempio. In Nord America. Sì, sì, e lo sciamanesimo è diffuso in tutto il mondo, appunto come la possessione, sono diversi. E questi sono tutti. A me quello che mi ha impressionato molto è che come si siano sovrapposti il sacro al pagano, il mistico al religioso, e come queste cose affondino le radici in un mondo antichissimo, perché si sono mescolate le credenze degli indios con le religioni, le magie, le pratiche degli schiavi d'America. Degli schiavi africani portati nelle colonie. Certo, questo è una delle cose che rende così interessante e ricco questo, la profumeria caribera, questo ambito, no? Così veramente pieno di inattese combinazioni dal mio punto di vista. Comunque è anche vero che appunto la situazione in Venezuela e in genere in America Latina, la situazione del seguro social, cioè dell'assistenza comunque medica, è drammatica, e questa è una delle ragioni per cui circa l'80% dei venezuelani di classe bassa o medio o media si rivolgono a curanderos o yerbateros, perché comunque la visita da un dottore può costare circa 100.000 bolivares, e il sueldo minimo, lo stipendio minimo è di circa 200, adesso mi sembra 250.000 bolivares, la metà di uno stipendio, non è pensabile, no? 1.000 euro per andare dal medico. E poi, negli anni 20-30 il 75% della popolazione venezuelana viveva in campagna, e i pochi medici laureati stavano in città, quindi in campagna si aveva tipo 0,5, mezzo medico per 1.000 persone, laureato, era gioco fuori. Allora diciamo che il curanderismo e le pratiche erboristiche legate comunque anche all'ambito del sacro, della magia, erano la forma di cura, di guarigione obbligata, ed è rimasto questo in un certo senso, perché poi il petrolio è stato scoperto negli anni 20, poi negli anni 30 c'è stata tutta questa fortissima, scioccante rivoluzione, questo cambiamento, no? Le masse dei contadini che si sono spostati nella città, è proprio lo sradicamento di queste persone che si sono trovate a vivere davvero con pochissimi strumenti culturali in una situazione pesante di inurbamento, e lì hanno comunque portato le loro tradizioni, e in fondo un po' il prestigio del medico bianco e laureato è inattaccabile, ma la familiarità con la quale ci si rivolge comunque a un curandero magari del proprio, no, della propria regione, ha fatto sì, insomma, questi fattori hanno fatto in modo che ancora adesso si continui a praticare nelle città tranquillamente. Le profumerie sono il luogo appunto della visibilità anche di questa forma di cura e di culto, dipende appunto dai casi, perché nel retro della profumeria si può prendere un appuntamento, una consulta con un curandero, forse imponendo le mani, forse con degli ensalmi, delle frasi, delle filastrocche particolari o unite con degli amuleti. Da un punto di vista placebo possiamo capire benissimo la forza. E altri casi, è successo di aver accompagnato una mia amica, due lauree, lavorava per il governo, di origine italiana, diciamo comunista, non credente, così tanto per dare l'idea del soggetto straordinariamente intelligente. Si era fatta male un ginocchio, stavamo viaggiando per la costa venezuelana, ma aspetta, so dove andare, perché potevamo continuare questo viaggio. E lei è stato molto bello, perché lei conosceva tutto, veramente conosceva molto bene il territorio venezuelano, e siamo andati a casa di uno, di questo simpatico signore, il curandero, e no, l'ho visto, però insomma, allora, gli ha messo le mani sul ginocchio, ha detto due, sono bisbigliato delle cose, e stava bene, no? Abbiamo continuato il viaggio. Devo dire, non così. Mi stupisce, è successo. Allora, sicuramente. Allora, effetto placebo, non so, però io a questa cosa ho assistito. Se conoscendo bene la persona, così, non credo che mi abbia trascinato in questo viaggio per dar mostra di questo episodio. E non ha voluto nulla, non ha voluto essere pagato. Ci sono molte persone così. Vedi, Molti curandari. Avrà sicuramente usato del tabacco. Tu mi spieghi perché tutti quanti fumano? Io ho questo incontro tuo che non so se ne vuoi parlare, perché quello è stato bene un po' così, insomma. Ecco, io l'ho raccontato a lei, ma siamo rimasti un po' così. E, tutti usano molto il tabacco, no? Lo usano nelle pratiche religiose, lo usano come curare, lo usano per tutto. Allora, lo usano come forma mistico-religiosa, diciamo, o anche come forma curativa, come o sempre. L'idea del fumo, o le cose si mischiano, perché come c'è sempre il tabacco. Ma sempre le cose si mescolano, sì, perché il tabacco, allora, tabacco in spagnolo è sigaro, che sono foglie di tabacco arrotolate, e il tabacco viene usato durante i rituali, no? Fumano tutti. Anche perché bisogna creare questa atmosfera spirituale. Esatto. È proprio così. Viene offerto alle divinità, acceso, viene lasciato. E, viene usato nelle pratiche di cura, per esempio nel culto di Maria Leonza, che è un culto indio, viene usato molto il tabacco acceso, il sigaro acceso o foglie di tabacco per purificare. Per purificare. Ecco, appunto, il tabacco ha effettivamente delle proprietà curative, e d'altra parte viene usato anche come... Ammazza tutti i germi possibili, lo so. Che stavi pensando di averlo usato sulle piante, questo non lo so più. Però insomma, le fumigazioni di tabacco, o anche il tabacco pestato o masticato e messo sulle ferite, è tradizionalmente usato, insomma, è una pianta medicamentosa, considerata tale. Non ho mai avuto questa esperienza, però insomma è usato in questo modo. Serve appunto anche a allontanare i serpenti, per cui portano, lo portano anche come amuleto, però. Lo portano anche come amuleto per i contadini, per evitare che i serpenti... Una cosa del tabacco in un sacchettino di cuoio. E comunque il fumo durante i rituali porta verso l'alto. Mm-hmm. È uno strumento di comunicazione con il mondo degli spiriti. Con il mondo dello spirito, ecco. Allora, passiamo un po' al mondo dello spirito. Noi finora abbiamo parlato di fenomeni che comunque non erano religione. Affrontiamo un fenomeno religioso invece? La santeria è forse la mia preferita. La santeria è una religione invece. Sì, è un culto magico. Lo chiamano appunto magico religioso, un culto. Me ne parli, perché io ho capito, ma devo aver capito male, che è un avvicinarsi al mondo dei morti. In realtà non è proprio così, no? No, perché questo appunto può essere detto dello spiritismo, ma la santeria è una religione, nel senso che ha un bagaglio mitologico, ha un pantheon, allora, e ha dei racconti mitologici, ha dei rituali, una liturgia, e quindi è una religione, certamente. E ha una religione affascinante, che è stata portata dagli schiavi africani, i Bojoruba, dalla costa d'oro del Ghana, Benin, Nigeria. Gli schiavi venivano portati nelle Americhe, il bacino caraibico poi, nelle colonie, e naturalmente volevano praticare la loro religione, che è una religione possessione, che è appunto originaria della zona, e era loro proibito dai padroni, dallo sduenios o dai master, praticare la loro religione. Quindi a poco hanno dovuto, venivano naturalmente obbligati ad andare in chiesa e a pregare questi, che per loro erano santi di gesso, queste figure di gesso che non rappresentavano nulla, queste persone che non avevano niente a che fare con la loro idea di sacro. Però poco a poco cominciarono, un po' credendolo e un po' facendo finta di crederlo, cominciarono ad associare alcuni dei santi cattolici che vivevano nelle immagini, nelle pitture, per alcuni colori simbolici, per esempio, o alcuni oggetti, alle loro divinità. Un esempio, Santa Barbara è una santa che è vestita di rosso e ha una spada, oppure a volte un'ascia in mano. Quindi per gli schiavi africani Santa Barbara era Changuo, che peraltro è una divinità maschile, perché il colore simbolo di Changuo è il rosso e perché è il dio dei coltelli. È un dio simpaticissimo, vi leggerò subito qualche cosa. Sì, la santeria è una cosa interessante davvero, perché c'è questo sincretismo proprio di... Com'è difficile estirpare la tradizione, no? Non si estirpa mai, la tradizione non muore. Il sincretismo... Si ricicla con altre... Incredibile. Sì. Il sincretismo, appunto, parlando di sincretismo, nel senso di fusione di della religione di origine africana con la religione cattolica. Parlando un po' con alcuni santeros o babalaos, cioè sacerdoti di questa religione, qualcuno mi ha detto, sì, vabbè, mi ha tirato un po'. Altri ha detto, no, no, una cosa è la facciata che gli schiavi dovevano mostrare, e cioè fingere di adorare i santi di gesso, e l'altra cosa che... insomma, gli schiavi erano comunque gli schiavi africani e poi naturalmente i loro discendenti erano ben sicuri di quelli che erano i loro padri, no? Perché poi nella santeria queste divinità che loro chiamano santi, questa è una forma di sincretismo per semplicità, almeno nei paesi di lingua spagnola vengono chiamati santos, los santos, no, dioses, no, los santos, quindi di questi santi si può essere figli, discendenti, diretti, per appunto per il proprio per il tipo di carattere che uno ha, si sente somigliante a un all'altro. E insomma, allora vi leggo questa cosa, si chiama Amori Divini. Dio Chun, si dice che al culmine della sua gioventù e bellezza era solita passare per il Wemilere, la festa in onore dei santi, per esibirsi nella danza. Uchun è una divinità, la dea della, come Venere, la dea della bellezza e dell'amore, più bella di tutte. Raccontano che Uchun avesse occhi di nero profondo e che la sua vita fosse così sottile che poteva essere abbracciata da un bambino. Al suono dei tambores, dei tamburi, i fianchi stretti della giovane dea si muovevano sinuosi e gli uomini guardavano le sue gambe lunghe e affusolate, gocciolando bava, dice più o meno il racconto mitologico Yoruba, vero? Un giorno il Wemilere, lo sguardo vellutato di Ochun, si posò su Changuo, il bel percussionista. La fama del giovane dal profilo orgoglioso correva di villaggio in villaggio, possente e agile negli abiti rosso fuoco. Changuo era il vanto di ogni cerimonia. La prima avance di Ochun fu quella di una donna sicura di sé che elargisce la sua curiosità predatoria a una nuova vittima, certa del successo. Ma Changuo, dopo una rapida occhiata, la allontanò distrattamente. «Non mi interessi, donna», disse guardando altrove. Ochun, punta sul vivo, iniziò a frequentare tutti i giorni Wemilere, ballava per ore saettando sguardi al musicista. Una notte si sfilò la tunica e danzò vicino ai tambores con il corpo cosparso di miele, che sostanza sacra per lei, che stillava dalle sue dita come pioggia dorata. Gli astanti contemplavano estasiati i movimenti nervosi della ballerina più agile del Wemilere. Al termine della danza Changuo le si avvicinò, toccò la sua spalla e le sussurrò nell'orecchio, con fiadeno o mordè, calmati donna, e le versò una bicchierata di miele sulla testa. La danzatrice umiliata scappò dalla festa a testa bassa, ma tornò il giorno dopo. Le belle donne non resistono alle sfide e attese che Changuo avesse terminato di suonare gli offrì di condividere il suo letto. «Lasciami in pace, donna», fece lui, tergendosi il sudore, e di nuovo la lasciò lì con un palmo di naso. Scattò il meccanismo dell'attrazione fatale masochistica e Ochun iniziò a seguirlo, aspettarlo, spiarlo, arrivò a insinuarsi nel suo giaciglio e alla fine, approfittando della stanchezza, forse dell'esasperazione di lui, abilissima nelle carezze, una notte riuscì a sedurlo. Ma non ci fu verso di toccare il cuore dell'uomo. Changuo sbadigliò, voltò le spalle all'amante. «O mordè, non sei capace di trattare gli uomini». Tuttavia la loro storia proseguì, notte dopo notte. Gli amanti si incontravano, si sentirono illuminati dalla luna e nell'erba umida, e Changuo non mollava, continuava a umiliare Ochun dicendole che era tonta e pesante come un elefante, indegna del suo letto. Ochun sopportava con la pazienza di un giocatore di bridge. Venne il giorno in cui la fortuna del suonatore di tambor declinò. Il Wemilere era in crisi e prima di essere licenziato l'orgoglioso Changuo se ne andò e si rifugiò in una capanna fuori dal paese, lontano dal rombo rauco dei tambores, come dice il mito. Ochun seguì il suo uomo e senza esitazione sacrificò tutti i suoi averi per lui, perfino i vestiti impegnò, restando con uno solo che tutti i giorni lavava nel fiume. A forza di lavaggi, la bianca tunica di Ochun diventò gialla e fu a questo punto che Chang'o iniziò a sentire amore per Ochun. E questo è il tono di uno dei miti un po' lontani, forse non tantissimo da quelli greci, non sono molto lontani da quelli greci. Sono così. Il colore simbolo di Ochun è giallo, e qui ti racconta perché è giallo. E una delle cose che si offrono a Ochun sempre è il miele, oltre l'oro, se si può, perché è giallo, le zucche, il miele, eccetera. Questo è un patacchì, è un racconto sacro, ci sono mille versioni dell'incontro fra Chang'o e Ochun, che sono la coppia, è Marte e Venere, lui è il dio della battaglia, e appunto, come dice Lidia Cabrera, che per me è la madre del mio interesse per la santeria, una grandissima scrittrice che scrisse Il Monte, un libro fondamentale sulla santeria. Lidia Cabrera dice: vabbè, ma non c'è uomo che sia vanitoso, amante delle donne, amante del gioco e dell'alcol, che non dica di essere figlio di Chang'o. E se si va a Cuba e si parla un po' con qualche iniziato, ci sono dappertutto, quelli che hanno i collares, non sono tutti iniziati in qualche modo. Ecco, li distingue. Sì, e sai anche di che santo sono figli. Comunque ti dicono: ma tu sei di Ogliá, tu sei di Ochun, tu sei di Ogun. A me dicevano sempre che ero di Ochun. Sì, che però non era strano, perché non amavo l'oro, le figlie di Ochun sono molto vanitose, ero incomprensibilmente sciatta per lei, perché era una figlia snaturata di Ochun. Il fatto è che mia sorella aveva comprato il libro di Lidia Cabrera in una bancarella dell'usato. Ha iniziato a leggerlo, molti anni fa, insomma, dopo 20 pagine mi ha detto: guarda, c'ho già gli incubi, sembra tu. E io ho iniziato a leggere questo libro a metà, ho deciso, vado a Cuba, inizio a studiare santeria. Quindi sono andata a Cuba e sono rimasta 4 mesi e ho avuto la fortuna di stare a casa di una santera che era antropologa al tempo stesso, a proposito, e che era figlia di Ochun. Naturalmente. E quindi lì in casa sua, dove c'era la sua governante, quella che si prendeva cura della casa e affittava stanze, era una, anche lei era una figlia di Obatalà, e lì si davano, diciamo, riunione, si davano appuntamento molti santeros o babalaos o semplici spiritisti. E io lì imparavo dai pettegolezzi, parlavano male di uno dell'A perché non ha fatto bene quella cosa, quel rituale, se fai così allora come si fa? All'inizio era un mondo, mi sembravano tutti pazzi, poi a poco ero affascinata da questa cosa. Qualcuno cercava di vendermi delle cose, delle consulte, oppure mi dicevano: no, devi subito entrare nella religione, perché costa caro entrare nella religione. E allora ogni bianco a essere degli iniziati bisogna avere dei soldi. Dei soldi, degli no, organici. Ci sono i santeros e i babalaos seri che ti dicono che se tu sei chiamata io ti faccio entrare, ok? Naturalmente devi pagare molti soldi, e ci sono quelli che ti fanno entrare perché comunque i soldi li prendono loro, e questo è un grande limite. Ho sentito tante critiche a quello, a quell'altro babalao, e ha fatto entrare nella religione un omosessuale, com'è possibile? Solo perché era ricco, e l'altro no, ma possono entrare. Io mi arrabbiavo sempre, ma com'è possibile? Ma sono le regole. Ma scusa, quindi un iniziato non è uno che sente la vocazione, eccetera, sì. Cioè sente la vocazione e poi, come da noi, e se uno no, più, un po' fa... più violentemente, diciamo, perché sì, la mia santera Marucci aveva avuto una vocazione piuttosto pesante, era incinta, così mi raccontava, del bimbo che io vedevo razzolare nel patio, e le era iniziata una terribile emorragia che non finiva più. E quindi non finiva più, l'ospedale aveva abbastanza denaro, tra l'altro lei era bianca, figlia di comunisti, appunto, invece cubani, quindi assolutamente lontana dalla religione, non pensava assolutamente di entrare nella santeria, non passato per la testa, però per il fatto che non riusciva ad arrestare questa terribile emorragia, disperata andò a consultare un santero, il quale gli disse: è Ochun che ti chiama, devi andare al fiume. E l'accompagnò al fiume e l'acqua fredda e gelata. Aveva già provato, fecero dei rituali, l'emorragia si fermò. E lei, bambino, e lei e dovette entrare nella stanza, un po' riluttante all'inizio, e poi alla fine sì, entrò. Ma che strano, ma vedi che, ecco, da loro sono cose, a me questo mi fa un po' paura. Tu parli anche di magia e potere, perché veramente, ma tutti si rivolgono, voglio dire, ma non c'è persona, mi sembra di aver capito, a qualunque livello, dal laureato al più all'analfabeta, che non abbia, che ne so, il suo santo protettore, ma comunque il referente. Anche da noi so, e mi stupisce moltissimo ogni volta che lo sento, ma ci sono i politici, forse per quello che andiamo così bene, che seguono l'oroscopo, che hanno il loro, no, l'oroscopo per carità, che hanno il loro coso personale, la loro strega, streghetta e mago di turno, eccetera. E lì però in una maniera proprio, direi, scientifica. Beh, da noi ancora mi stupisce, lì non mi deve più stupire. Chavez, poi dopo ne parliamo. Sì, ecco, sì. Di Chavez, su Chavez girano pettegolezzi. Io ho sentito pettegolezzi, tranne forse uno da un sacerdote cattolico, persona veramente eccezionale, Don Gustavo, che sosteneva di aver conosciuto personalmente il Palero, cioè un sacerdote di una religione di Palo, da molto potere, che aveva fatto entrare nella religione il braccio destro di Chavez, e sosteneva che Chavez era assolutamente protetto, quindi aveva, come del resto hanno sempre detto di Fidel Castro, ok? E se ne parla liberamente di queste cose, si parla liberamente dei dittatori del passato. Come Rasputin con Zara. Sì. Esatto, forse di più, perché proprio di Chavez si dice che faccia parte, che sia un potente Palero, che sia stato iniziato nella religione di Palo, che è una religione che proviene dal Congo. È una religione che lavora più con i morti che con i santi, cioè con defunti, diciamo, sì, più legato allo spiritismo, allora, che è molto interessante, molto segreta, molto pericolosa. Ma c'è questa commistione, no? Perché se pensiamo anche alla componente esoterica nel nazismo... Difatti, quello volevo dire. No, voglio dire, certo. C'è sempre stata, e lì c'è moltissimo. Sì, da questa commistione. E poi però c'è anche la cosa che è una cosa affascinante, no? A parte, appunto, dicevo, questi dittatori del passato, Gomez, Perez, Jiménez, che erano assolutamente avvolti, no? nelle trame delle religioni, anche della magia della loro epoca, e che di fatto favorivano i culti, fingendo da un'altra parte per far piacere la Chiesa cattolica, della quale non potevano fare a meno, fingendo di proibirle da una parte, li favorivano dall'altra parte. E poi magari, se parliamo poi di Maria Alonso, questa è una cosa importante. Ma di Chavez ci sono, la cosa bella è che su questo si possono inventare mille pettegolezzi. Per esempio. No, io mi stupisce molto, perché a parte il fatto che me lo hai proprio demitizzato, il povero Chavez. Perché c'era? Ho letto delle cose terribili, non so, metà della tua scuola, lei ha insegnato per 3 anni in Venezuela, in una scuola spagnola, no? Insegnava. E beh, le sue colleghe erano tutte antichaviste in una maniera tremenda. Dico, ma dove sei capitata? Peggio che al liceo Manzoni. Questo è la vista di Milano. Però sì, però anche loro alla fine, poi erano italiani, no? Quindi non erano apparentemente, non dovevano, ma anche loro credevano fermamente che Chavez avesse dei poteri, per esempio. Cioè, che stesse resistendo a un golpe, all'altro golpe, alla forza comunque dell'opposizione, non era, no, dell'ultradestra, non era certamente una piccola, in virtù delle sue protezioni e della sua forza, ma alla fine. Non devi specificare, scusa, perché quando dici protezioni da noi intendiamo un altro genere di protezioni. Mi stavo confondendo. Protezioni magiche. Protezioni magiche. Appunto. Sì, è protetto. E se... Senti. Posso leggere? Allora, c'era stato un golpe, no? Il primo, no, il secondo golpe, dal quale sì, Chavez appunto... allora, era da poco passato, si era quasi alla fine dell'aprile 2002 e il ricordo del golpe si stava scrostando dalle coscienze. La maggior parte della gente con cui parlavo diceva di non guardare più la televisione, niente giornali, era necessario una pausa. Era necessario non farsi domande, smettere di litigare in famiglia, in ufficio, in autobus, sospendere per un momento il corpo a corpo tra chavisti e squalidos, anti-chavisti, come vengono chiamati quelli dell'opposizione, che ci aveva lasciati nauseati a guardarci i palmi delle mani senza parole. Qualcuno dal fronte anti-chavista ammetteva finalmente che sì, in un certo senso si poteva chiamare golpe quello che era avvenuto, anche se la maggior parte schiumava furibondamente che si era trattato di un vuoto di potere, perché se anche il presidente non aveva firmato la benedetta rinuncia, aveva però detto che rinunciava. Insomma, l'eclisse della regione stava passando, non ero così sicura, ma di certo la gente, divisa su fronti opposti, schierata in fazioni nemiche, aveva voglia di tornare ad essere tutta venezuelana, cioè di fare festa. A quel party di compleanno mi aveva invitato un'amica della Cruz Roja spagnola, Maria José, alla casa dei volontari della Croce Rossa alle 10. Prendi un taxi perché in avenida Fuerzas Armadas non è il caso di camminare dopo le 6. E porta una bottiglia. Ero contenta di uscire. Sono stata a casa. Ero contenta di uscire. Speravo solo che non ci fosse tra gli invitati il direttore di progetto, le cui isterie Maria doveva quotidianamente sopportare, il grasso Chico. Chico il Gordo, settimane prima del golpe, quando la situazione era già piuttosto tesa, Chico il Gordo ordinava ogni due giorni ai suoi collaboratori di fare le valigie per essere pronti al piano di evacuazione previsto dalla Cruz Roja. Nel golpe in verità sperava da tempo, per poter passare qualche giorno a Aruba. Chico adorava i paradisi caraibici senza guerre civili e aveva anche in mente di fare un salto in Ecuador, dove era stato precedente missione e dove tornava ogni due mesi per continuare l'operazione depilazione definitiva alla schiena. Una vanità fuori luogo, secondo me. Sosteneva che lì gli istituti di estetica erano molto meno carichi a Caracas. Maria, invece, imbevuta di spirito crocerossino, ribatteva al Gordo che a suo giudizio non vi era un pericolo reale. Non ancora, si poteva aspettare, forse addirittura rendersi utili in caso di golpe o disordini, perché anche se il loro progetto era agricolo, tuttavia, come Croce Rossa, la loro neutralità e capacità di intervento li metteva in condizioni di poter... Sai una cosa, l'aveva interrotta il capo progetto? Di tutta sta gente ne ho piene le palle, che si ammazzino tra loro. Passata la storia. Beh, quella sera alla casa dei volontari però l'atmosfera era delle più spensierate. Salsa brava, bicchieroni di rum e succo di qualsiasi cosa. Allegria studentesca. Nella sala era stato spostato il tavolo e i volontari venezuelani cercavano di insegnare a ballare ai loro colleghi spagnoli, un po' goffi. Sembrava un po' una notte da dopoguerra. Mi trovavo a conversare con Joaquín, che lavorava nella radio dell'Associazione Cattolica di Fe e Allegria, la prima radio che durante le ore del golpe diede notizia che la divisione dei paracadutisti di Maracay era insorta e voleva liberare Chavez, ancora prigioniero dei golpisti, nell'isola caraibica della Orchila. L'avevano portato nell'isola e lo stavano, volevano liberare. E tu che ti credi? Dice questo. Perché il golpe è fallito? Perché il governo provvisorio è durato solo due giorni? Mi interpella Joaquín, aspirando la sigaretta che tiene con la mano aperta, le dita a polipo contro la faccia. Folklore venezuelano, rispondo, adeguandomi alla tendenza collettiva di mettere sul ridere qualsiasi discorso politico. Ma li hai visti i golpisti? Li hai visti quando brindavano con champagne tutti in giacca scura, tutti bianchi, questi oligarchi? Non c'era un negro, non ho visto una donna, hai capito che governo stavano facendo con a capo quella marionetta di Carmone Stanga? Hanno sospeso l'assemblea votata dal popolo, questi fascisti, e dicevano che Chavez aveva rinunciato. Sembrava inarrestabile, Joaquín. Mi guardo attorno in cerca di vie di fuga, forse se ballo me la cavo. Ma tu che ti credi? Avevano tutto, la finanza che controllavano loro da sempre, i generali hanno insorti, Chavez rapito, i vescovi che benedicevano. Vabbè, perché hanno fatto tante cazzate in così poco tempo? Come hanno fatto a perdere? Infatti se lo chiedevano tutti, come hanno fatto a perdere? Certo, Chavez aveva ancora l'appoggio della base, dei barrios, delle favelas, di molta parte dell'esercito, poi tanta gente non era disposta ad accettare una dittatura di colletti bianchi, ma la ragione vera. Te lo sei chiesta qual è? Lo hanno fatto tornare. E silenzio. Guardo il facondo giornalista per vedere se ha subito qualche guasto con la preghiera. scusa, hanno fatto sì che Chavez ritornasse al potere. Hanno fatto catene di preghiera, Santeros, Paleros, Maria Leonceros, cattolici, sì, anche noi cattolici, perché non è vero che i cattolici non vogliono Chavez. Certo, ha tagliato i fondi all'Opus Dei, vabbè, ci sono cattolici squalidos che lo vedono come un satana comunista, poi l'hai visto, no? Che il primo che ha firmato per il governo golpista è stato il vescovo dell'Opus Dei, ma io sono cattolico cattolico, cattolico e chavista, e ti dico, perché lo so, lo abbiamo fatto tornare noi. Da quando è iniziato tutto il casino, sono iniziate le catene di preghiera da Venezuela a Cuba. Tutti i santeros cubani, quelli di qua, pregando giorno e notte, senza riposo, te le immagini? Hanno fatto anche altri lavori, di certo, c'è gente che non scherza, ma insomma soprattutto preghiere, e hanno alzato una cortina di fumo, hanno nebbiato la mente dei golpisti. Le abbiamo rimbambiti. E che ti credi? Come hanno potuto perdere se no? Com'è possibile che Chavez si sia liberato dagli stessi militari che lo tenevano prigioniero e sia tornato a Miraflores, palazzo del governo? Lo abbiamo fatto tornare noi. E come se no? Te lo sei chiesto? Mi arrendo. Beh, uno ci pensa, potremmo provare. E questo era una cosa. Perché lui era veramente cattolico. Era veramente cattolico, davvero convinto, era chavista. Certamente un problema, ma aveva questa fede comunque, non semplicemente nella preghiera come hanno i cattolici, ma nei lavori, nella forza, nella catena, cioè, sì, di preghiera, nei gruppi. Dai, noi abbiamo perso, devo dire che leggendolo, io sono, ne parlavamo, no? Sono rimasta un po' perplessa, cioè si parlava anche con Daniela, con vi chiamate Daniela tutte e due, mi sono accorta adesso. Io dicevo anche con Daniela, poi ho detto no, ho sbagliato nome. Non parlavamo ieri mentre arrancavamo sul panciafone. Beh, in effetti noi, la civilizzazione, cioè la tradizione popolare legata alla terra, alla campagna, la chiamiamola minore civilizzazione, minore urbanizzazione, effettivamente ha, insomma, l'istinto, la credenza, la tradizione, cioè, qualcosa è servita, qualcosa è rimasto in loro di più rispetto a noi. È questa permeabilità, certo. Quello che per me rendeva affascinante questo posto era proprio l'apertura, la permeabilità di tutte le regioni, di tutti i culti, tutti con i culti, tutto. Certo. E quindi poi si creavano anche forme nuove, non ci sono nuovi santi, cioè nuovi spiriti, diciamo, ogni giorno. Poi ce ne sono alcuni che di moda e altri ecco, meno. Ecco, di questo voglio che tu gli spiriti dei vichinghi, ma io dico, ma chi sono questi vichinghi che parlano tutti? Presente Thor, i fumetti, come e a volte ti sembra di sconfinare nella follia. Nel fantasy? Fantasy. Scusa. Però davvero, una prostituta che muore in quell'angolo dell'autostrada, lì il giorno dopo la vedono apparire. Pazzesco. E quel luogo diventa luogo, si chiede a favori allo spirito, scende nei cavalli. Poi lo leggo alla fine quella cosa di Canestrini. Tu ci racconti questo culto della Maria Leonza? Lionza, il culto di Maria Lionza è Lionza, che è un culto urbano. E questa sì, questa è stata una grande sorpresa, perché è il culto venezuelano, trantormasia. È grandissima questa. Sì, è un culto molto forte. Maria Lionza è una divinità india, quindi è proprio un culto di Venezuela. Ok, e io mi ero, insomma, incontrata varie volte con questo culto, lo evitavo un po' perché ero più interessata ai culti di origine africana, però insomma era proprio dappertutto. E allora poco a poco mi sono avvicinata. Innanzitutto Maria Lionza ha una montagna dedicata a uno di questi dittatori, le ha regalato, ha regalato a Maria Lionza una montagna che è diventata un immenso tempio dedicato, la montagna di Sorte, non è vicinissimo a Caracas. Però è meta di grandi pellegrinaggi, queste caravane che vanno alla montagna di Sorte. Ci sono vari templi, no? Fatti di alberi, perché è una dea della natura. Ma io non sono mai riuscita ad andare alla montagna di sorte, sono rimasta ai piedi della montagna di sorte perché mi succedeva sempre qualche cosa, mi mettevo d'accordo laboriosamente, non si può andare soli, è molto pericoloso, ci sono molti attacchi, molti ladroni, c'è molta delinquenza, non puoi andare, devi andare in un gruppo organizzato, nessun problema, io organizzo il gruppo e così, e il giorno prima mi telefona, la macchina si è rotta, non possiamo andare. Poi passa un po' di tempo, mi dimentico, magari vado a fare altre cose, il fine settimana lavoravo tutte le settimane, avevo il fine settimana per dedicarmi alle cose che mi interessavano. Altre volte mi metto d'accordo con altre persone, la mamma sta male, non si può andare, ma come? Ci andate tutti i mesi? Sì. Mi succede una dopo l'altra, allora, i miei amici cominciavano a consigliarmi, fatti fare una purificazione, ma io per orgoglio ho detto no, io queste cose non le fa, anzi ci vado da sola e vado alla montagna di sorte. Cioè, tanto troverò una caravana che va su, non l'ho trovato. Infatti uno dei guardiani delle montagne, se no non è ricordato, credimi, Maria Leonza non ti vuole, non occupati di altre cose, però a parte questo a me ha sempre, mi ha affascinato dopo un po', proprio perché Maria Leonza non mi ha voluto, mentre mi era sempre così facile entrare nelle altre, non c'è andata, no. Io non ho assistito a un rito di Maria Leonza, sono arrivata nel paese abbastanza triste raccontare questi fallimenti, ma fanno parte di questa avventura, e poi ho parlato un po' con le persone e ho detto, è evidente, non ci devi andare, va, prendila così. Quindi, però io me la sono studiata, poi ho intervistato un'antropologa, Desi Varretto, che si è occupata metà della sua vita di questo culto e mi ha raccontato delle cose molto interessanti. È un culto urbano, montagna, è un culto che è nato a Caracas. Questa cosa, per adesso ho letto il libro di Daisy Barreto e ho approfondito questa questione. È un culto inventato, è stato inventato negli anni 30 da un giornalista, Antonines, che scriveva di tradizioni popolari. Ripesca un mito di una dea delle acque. Lo collega con dei reperti archeologici, cioè delle immagini ofidiomorfe, no? In forma di serpente, e comincia a costruire leggenda dopo leggenda, prendendo un po' una filastrocca, una vecchia canzone, comincia a costruire negli anni prima il mito, cioè diciamo prima la leggenda, poi diventa un mito, e a poco capita nel momento perfetto, nel momento cioè in cui il Venezuela sta perdendo identità. Perché appunto le campagne si svuotano, la gente va nelle città, si è scoperto il petrolio, è pieno di tecnici e di persone che vengono anche lavoratori del Nord America, cioè è un momento veramente di perdita dell'identità, e c'è Pérez Jiménez, dal 48 al 58, un dittatore che decide di favorire questo culto, che ha al centro una figura tipicamente venezuelana, vero? Adesso siamo tutti venezuelani e lasciamo spazio a un culto che unisce i venezuelani. Commissiona una statua di questa Maria Leonza a un famoso scultore, Colinas. Colinas nota una bellissima donna, diciamo una specie di Sofia Loren, una donna bella che faceva la ballerina. E questa bellissima ragazza diventa modella del Colinas e viene rappresentata, raffigurata nell'immagine della dea a cavallo del tapiro, questo animale. E pare che anche non sia rimasto indifferente alle grazie di nemmeno il dittatore Pérez Jiménez, che peraltro diventa uno dei fedeli di Maria Leonza. Ma il fatto è che questa bellissima donna, che si chiama Beatriz Beitané, prese questo nome Beatriz Beitané, e cade in trance, viene posseduta da chi? Da Maria Leonza. E comincia a operare delle guarigioni miracolose. Non solo, ma se ne va per i villaggi, va nelle bidonville, non andava nessuno, e comincia gratuitamente, naturalmente, a operare queste guarigioni. Si dà molto, si distrugge, fumava più di 100 sigari al giorno, sigaro naturalmente per la pratica religiosa, quindi non si risparmia certo, e diventa l'angel de los cerros, l'angelo delle bidonville. Quindi diventa una figura centrale importantissima del culto di Maria Leonza, che finalmente è visibile al viso di una donna bellissima alla quale è stata dedicata la statua, viene messa all'entrata di Caracas, diventa un culto. Del resto è un culto che si diffonde prima nelle classi alte, nelle classi alte che erano intrise di massoneria, erano Rosa Croce, erano molto influenzati dallo spiritismo di Allan Kardec, importato dall'Europa, perché le classi alte erano di origine europea, quindi erano vicine già. Accettare questo nuovo culto, che ha poi questa immagine accettata dal potere e così esteticamente infiammante, è stato... Ed è ancora oggi accettata dal potere. Certo, in modo un po' diverso, dato che non così, diciamo, diventa, è più, diciamo, più una tradizione da rispettare, ma le sfere del potere non parlano frequentemente di queste cose, anche perché appunto... Cioè ci credono, ma non parlano. No, non parlano. Mi posso leggervi io adesso una cosa che scrive Duccio Canestrini, certo, a proposito di parlare? Quando lui dice... che lei non è una turista qualunque, cioè a lei non interessano i monumenti, a lei interessa la gente, no? A lei interessa entrare in contatto con. Allora Canestrini scrive, no? Dice, naturalmente questa profumeria, che come si è capito non è una profumeria, eccetera, eccetera, in particolare dice, ma un negozio di magia fa pensare al nostro profondo sud, e in particolare al grande Ernesto De Martino di Sud e Magia, che a partire dal 52 svolse la sua inchiesta sulla magia bianca, esplorando le dimensioni esistenziali che producono tarantolate, possessioni e fascinazioni. De Martino, buon per lui, Canestrini è sempre abbastanza pungente, si avvaleva anche del finanziamento da parte della Parapsychology Foundation di New York. Lei ci è andata a suo rischio e pericolo e a sue spese. Amuleti e scongiuri servono a ricomporre un ordine naturale, a recuperare un'identità culturale. Nel nostro meridione, così non nelle metropoli sudamericane, il ricorso alla magia da parte del contadino urbanizzato serve a riconnettersi a un mondo tradizionale, dove i transiti tra il fisico e il metafisico non sono pertugi ma canaloni, dove con il numino luminoso si dialoga, ci si arrabbia, si contrattano condizioni di vita accettabili. Straordinaria la scena descritta da Daniela Fabbri di quel tizio che alle 4 del mattino, in un punto piuttosto pericoloso dell'autostrada, all'ingresso della capitale, si arrampica sulla grande statua di pietra di Maria Lionza, la dea madre e prostituta, la figura di culto più importante del paese, e la prende sessualmente. Allora, non è vero che a Daniela non interessano i monumenti, le interessano e come, quando succedono cose così. Perché la statua stessa è oggetto di culto, era diventata... Cioè, ma pensa alla gente, ecco, questo è, cioè, strano. Sono tutti, ma no, è una cosa... Quindi che fare anche con la statua, sì. Cioè, hai il culto... Facevano bene quelli che... quando avevano vietato il culto delle immagini sacre, secondo me non era sbagliato. Io non vieterei quasi niente, poi è una dimensione poi molto... ti trovi a fare... Non so cos'altro chiederti, vorrei... Basta, se voleste chiedere qualcosa. C'è veramente molto da... Ci sarebbe no, una... Ma se la Cuba, la sanità funziona abbastanza, quindi non c'è l'alibi della... Cioè, a Cuba, bisogna... A Cuba funziona. Allora, quello che... l'alibi che la sanità non funziona non regge praticamente. Sì. Ci sono tutti questi... A Cuba la sanità funziona, ma hanno poche, a parte, hanno davvero poco denaro. Anche lì trovare le medicine è difficile. Sono stata curata io a Cuba gratuitamente, tra il resto, ho delle offerte, ma per cui ma il discorso della cura a Cuba, quello che io ho visto, è più cura spirituale. Più sì, ci si libera, anche perché per i curanderos l'origine di una malattia è comunque sempre un'origine spirituale. Qualcuno ti ha fatto il malocchio, tu hai commesso una cosa per la quale... Quindi si fa il despojo, la purificazione con le piante, con le erbe, con le preghiere, per far sì che inizi il processo di guarigione, ci si pulisca, insomma inizi il processo di guarigione. Anche lì possiamo sempre dire, se non altro, come placebo funzionava. Altro non si può, però sì, e poi I curandero curano davvero i mali dell'anima, quelli, certo, e ascoltano molto, così come i santeros, che sono anche spesso curanderos. Sì. È una delle funzioni più importanti della santeria e delle altre religioni è quella delle cure. E a dire la verità, io ho incontrato schiere di persone che erano entrate nella religione per un voto, per ringraziare di una guarigione miracolosa. Diciamo che è uno dei modi in cui si entra nella religione, come fedeli e come iniziati, è proprio per malattia, per una malattia incurabile. E io ho incontrato persone che, a detta di tutti, e vedendo le loro cicatrici, difficile metterlo in dubbio, erano completamente paralizzate. Una bambina che aveva un tumore del sangue, che era stata guarita, era una delle più piccole iniziate che ho incontrato, tra il resto in una religione fra le più segrete e mal viste, che è appunto la religione di Palo Monte. In cui ho avuto la forza di soldi per entrare, cioè no, devi pagare. No, per esempio la santeria è considerata cara, ma la regione di Palo, la regione Conga, no, è molto. E poi c'è una cosa da dire. Tutti quelli con cui ho parlato, ho avuto la fortuna di parlare con un paio di casi, sono andata via, ma sempre con persone che mi davano una sensazione di essere al sicuro, quindi persone che avevano una buona disposizione, allora, diciamo. E questi mi hanno sempre assicurato, e parlando con i fedeli, che chi non ha denaro viene assistito, chi ha poco denaro dà quello che ha. E se ci pensiamo, la maggior parte dei loro fedeli è gente delle bidonville, hanno sempre lavori umili o senza lavoro, anzi stanno cercando lavoro, per questo parlano col palero, col santero, e quindi in questo senso no. Anzi, la casa del santero e la casa del palero diventano il tempio, insomma, diventano punti di veramente famiglie, no? Non sette. Perché non direi così, forse in qualche caso accade, ma sono più, forniscono proprio una rete familiare. Si può uscire? Sì. Si riesce a uscire? Ah, dalla religione? Se si è stati iniziati no, il patto è per sempre. Se si è stati iniziati il patto è per sempre, ma non necessariamente si deve far parte di quella famiglia, in questo senso. Allora, ci si può staccare dal proprio padre di santo, cioè da colui che ci si è iniziati, sì, succede, ma il tuo patto con la divinità o col santo è per la vita e non si sgara, perché i santi non perdonano. E poi c'è questo rapporto molto, beh, che in fondo hanno anche gli ebrei con il loro Dio, no? Personale. Molto personale. Il patto personale. Tu ti arrabbi, sì. Tu lo critichi, patteggi, eccetera. Questo è una cosa che noi non facciamo, per esempio. Infatti, per esempio, molto naturale. Le persone che credono nella santeria dicono di essere, di credere in un unico Dio, Olofi, solo che Dio è così lontano, che ha bisogno di questi intermediari, che sono i santi, a loro possiamo rivolgere, con loro possiamo parlare, ma non è tanto diverso che nella nostra religione cattolica. Bene. Noi chiediamo i santi. Esatto, e c'è il culto dei santi. Quello per i lebbrosi, quello per le piaghe, quello la per... stessa cosa. Cioè non è che ci sia tanta differenza, Esattamente la stessa cosa. E si danno delle cose, si fanno delle offerte, si mantengono. Non parlare della santa del paese che ha fatto miracoli, nessuno la conosce, solo quelli e ha i suoi fedeli e ci vanno, e cioè ci sono anche da noi. Certamente. E siamo nel 2011, non è che. Certo, forse la differenza, sì, ci sono molte differenze, ma ci siamo compresi, certo che la base è questa, c'è il fatto che il santo scende, il santo di santeria, la divinità, allora diciamo così, scende, si impossessa, entra, è qui, era qua ieri, sarà qua domani, ci parla direttamente attraverso la voce, ma guarì, no? Io dico, no, ma ha guarito me, era, sì. Il medium è un medium, ma chi mi ha guarito è il santo. Sì, è il santo. Comunque, anche qui sono successe cose un po' strane, perché perché le donne che non possono, che sono le donne che sono incinte, sono in attesa, non hanno il denaro per andare a fare l'ecografia, vanno dal Santero, dal Palero. E io ho visto se. Per sapere, c'è un corno con uno specchietto. Mi pare di aver letto qualcosa in qualche libro che ho letto, questa cosa. È molto diffuso. Con questo fanno una specie di. Ti dicono come è messo il feto. Sì, ma però io ho avuto prova diretta che qualcosa vedono. Sì, è certamente. È vero. Certamente. Chiedendo. Dicono cose che nessuno può sapere. Cioè, sì, a te hanno detto cose che nessuno poteva sapere. Sì, ma ripeto, a volte mi sono molto bisogna distanziarsi. Distanziata da altri personaggi, da altre figure che ho incontrato. Come, non so, come ci sono i bravi medici, i cattivi medici, come ci sono. Ecco, è la cosa. Da noi ci sono i ciarlatani e ci sono quelli che hanno davvero dei poteri. Sì. E io ho trovato interessanti anche i ciarlatani da un certo punto di vista, perché comunque devono avere delle capacità anche loro quando animano questa superficie brillante, no? Che è quella così. Sì, per comunque davano anche un'immagine di quella che è la percezione sociale. Di questi fenomeni. Quindi sì, è sempre stato interessante. Ogni incontro è stato interessante. Moltissimi sono stati gli incontri. Sì. Ho girato tanto. Sì. Poi c'è tutta la differenza tra le isole, tra la parte caraibica e il Venezuela, ma insomma diventerebbe. Sì, viaggio un po' fra Cuba, Venezuela, Trinidad e Tobago. Altrimenti Venezuela è stato molto più tempo, Cuba ha iniziato, ci sono interviste, ci sono racconti, ci sono cose che ho studiato e ci sono narrazioni di cerimonie nelle quali io ho avuto la fortuna di essere. Solo a proposito della sanità, parlo di veramente tantissimi anni fa, mio padre è medico, aveva avuto un incidente a Cuba. Mio padre liberale, tutt'altro che uomo di sinistra, eccetera, è stato curato in una maniera stupenda, ha riportato un'idea di Cuba, per cui da allora credo abbia portato sempre a sinistra. Beh, veramente questo innamorato di Fidel Castro, è tornato, capito? Perché e del suo sistema. No, del fatto che potente. Quando da noi ancora non c'era una sanità pubblica un po' particolare, c'erano le classi negli ospedali, eccetera. Lui aveva a vedere questa lezione di democrazia e vedere come tutti erano curati nella stessa maniera, è rimasto folgorato. Però è interessante, chi ti cura ha un grande potere. Adesso poi è diventato ministro, questi entrano nella santeria, perché chi ti cura, immaginiamoci poi, da una malattia incurabile, da una cosa di 40 anni fa, voglio dire. Ha un potere enorme. Non entrerebbe. Vuoi leggere qualcosa d'altro? Forse tardi. Perché sono le. Quindi c'è stato un quarto? Hai voglia se leggiamo un attimo una cosa. Poi. Hai una cosa da leggere così. Una cosa da leggere così. Sul Palamonte. Sono molte, sono io, mi ero fatta 1000 segni, qui 1000 orecchie. Ma è davvero tanto ed è anche complesso, sei stata brava secondo me a renderlo anche abbastanza comprensibile, perché dopo un po' ti dico serve uno specchietto, ma è difficile perché ci sono troppi link, non sai più da parte. È incredibile, è un mondo. D'altro canto anche chi si avvicina, chi legge su De Magia da noi, chi anche da noi ci sono tradizioni di questo genere, certo lì ci sono più forti, più sentite forse, forse, o forse siamo noi che conosciamo poco le nostre, non lo so, io conosco poco le mie, anche perché qui è diverso rispetto al sud, chi legge i libri di De Martino lo sa. Beh, qui è una parte finale, io sono andata a racconto il viaggio a Trinidad e Tobago, e lì sono andata per sentire, per sapere che cos'era Obia, di cui nessuno mi voleva parlare. Ma nessuno, no. Infatti mi avevano detto i miei santeros, ma quelli che conoscevano, dicevo, guarda, sta attenta perché è pieno di stregoni. Vabbè, non è che, no, no, lì non riuscirai a fare niente, nessuno ti dirà niente, vabbè, vai a vedere. E naturalmente avevano ragione. Sono andata a questo posto, studiando le cose, è un'isola splendida, un'isola bellissima, e a un certo punto io ero riuscita ad avere il nominativo, ma una gran fatica. Vai lì, lei è la più potente di tutti, va bene, allora io prendo questo taxi, cioè prima l'autobus, piove eccetera, poi prendo il taxi faticosamente, arrivo in questo posto stranissimo, lì ci sono tutte, ma anche lì mescolanze di tutte le religioni. Da qui, diciamo così, lungo la strada, tra l'erba alta, sbucano le case in stile francese con le loro decorazioni di merletto corroso e colori d'acquarello. Sono chiuse con le finestre cieche sotto il sole del primo pomeriggio. Quasi tutti gli edifici sono di legno, con le loro torrette, le guglie, i balconcini. Paiono case di bambole invecchiate, sprofondate in un sonno stuporoso. Dopo la pioggia i bambù schiumano argentei nell'aria mossa. Moruga, sono arrivata, c'è niente. La gente scende dal taxi all'entrata del paese. Rimango solo io a bordo. Do l'indirizzo scarabocchiato su un pezzo di carta all'autista, che dispiega il foglietto lentamente, lo rimira, lo allontana un po' per leggere meglio le parole scritte, lo scartoccia ancora, lo liscia e me lo dà. Lei cerca Mother Cornhawk. È morta da pochi giorni. E il tassista si volge alle 2:30. Allora, cosa vuol fare? La strada finisce sulla sabbia color cannella di faccia al mare. Quando l'autista spegne il motore si sente solo la risacca. A sinistra una chiesa protestante, a destra uno spaccio di liquori. La marea bassa scopre il fondo di pietre che si inoltra per centinaia di metri. Sulle spiagge corre una banda di cani inseguendo dei cespugli di rovi che il vento fa rotolare. Non è un posto da turisti, Moruga. Non è il sogno caraibico. Per la strada non c'è nessuno. Cerco qualcuno come la signora Cornhawk, qualcuno che mi possa aiutare. Sono arrivata fin qui, capisce? Provo con la solidarietà umana. Il tassista resta sul vago, dice che non sa, non è di là. Sembra indeciso. Qualcuno? Se gli viene in mente qualcuno, c'è una Mother Fanny, ci sarebbe anche una Mom Vera. Ma poi si riscuote e con una risoluzione subitanea mette in moto. No, non mi può accompagnare da nessuna parte, deve tornare subito a San Fernando. Scendo. Quando il taxi scompare, resto di fronte alla spiaggia con la chiesa bianca tormentata dai gabbiani, l'abbaiare dei cani ormai lontano, il respiro stremato delle onde. Mi ricordo di quei film horror che iniziano esattamente così, con un personaggio nel posto sbagliato. E mi sento sudata sotto il cappello, lo zaino che mi morde le spalle, gli occhiali da sole impataccati. Disperatamente turista. Butto lo zaino per terra e fermo la macchina la prima che passa. Lascio il resto. Okay. Poi mi porteranno da qualche parte. Ma trovo tutte altre cose e nessuno mi vuol dire niente. Poi mi batto anche un paio di poliziotti, dico, vorrei, mi interessa, scrivo, Obia, non esiste. E che lì c'è un po' il ricordo di quei film, sai, sulla mafia, ma certo, esiste. E poi non vogliono dare forse un'immagine di sé. Ma era molto interessante perché questo derivava da una serie di leggi che erano state fatte perché non si poteva nemmeno pronunciare. Ma nel secolo, nel 1800, erano uscite delle leggi perché non si poteva pronunciare la parola Obia. Dove, a differenza di quello che accadeva in Venezuela, che tu erano contentoni di parlarmi delle cose, basta l'intervista subito, le cerimonie no, era più difficile, ma le interviste le trovavo abbastanza facilmente. Invece lì nessuno, e sono andata in una perfumeria e mi hanno fatto buttare fuori, avevano chiamato i butta fuori quando io dicevo no, io vorrei parlare, alla fine ho detto vabbè, allora compro delle cose. Insomma sì, ci sono vari fallimenti, secondo me non si può che accettarli. Grazie.